Baldone, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, ben ritrovati, bentornati per una nuova puntata di Zibaldone qui su Radio Contrabanda. Cominciamo subito con un po' di buona musica. Sono Mister Rantino e Davide Campisi a Manu Manca, questo brano strumentale con cui abbiamo aperto la puntata dello Zibaldone di questo 21 giugno 2024, tratta dal loro nuovo album intitolato Du, di cui ritorneremo a parlare. Oggi ci accompagneranno alcune news musicali che ci arrivano dall'Italia per una puntata di un dibattito intitolato Dove va il mondo? Insomma, parliamo di massimi sistemi dopo le elezioni europee, tenendo conto insomma di quello che succede in Europa, in America, in tutto il mondo, la guerra a Gaza, la guerra in Ucraina, insomma, dove sta andando il mondo e che possibilità ci sono, tenendo conto anche dei risultati di queste elezioni europee. Ne parleremo insieme a due graditi ospiti, due graditi ritorni, ci hanno accompagnato varie volte a Zibaldone, sto parlando dell'economista Emanuele Felice e dello storico Valerio Romitelli, con loro dibatteremo in quest'ora di Zibaldone. Però, come vi dicevo, ci sono anche un po' di news musicali che ci accompagneranno, come ad esempio questo brano con cui abbiamo aperto di Mimì Serrantino e Davide Campisi, ma anche una news che ci è arrivata fresca anche questa dall'Italia, e di cui è autore Gerardo Balestrieri, insomma, che abbiamo seguito negli ultimi ormai più di 10 anni di puntate di Zibaldone. Sta preparando due nuovi album e uno è interamente di cumbie. Insomma, Gerardo Balestrieri non smette mai di stupirci, e in anteprima l'album uscirà dopo l'estate. Ascoltiamo e vi proponiamo questa cumbia de Felipe. Lui è Gerardo Balestrieri. Felipe está perdido en los montes de su corazón. corazón, Felipe vencido. Eros juntas desde su corazón, Felipe escondido. En los andas desde su corazón. Y hablando con ella, de una estrella fugaz, en la noche amarilla, de una vida rapaz. Y hablando con ella, de una estrella del mar, en la noche amarilla, de una vida fugaz. Felipe está perdido, en los montes desde su corazón. In collegamento telefonico con noi dall'Italia Emanuele Felice, economista, professore presso la IULM, autore di vari libri. Gli ultimi sono La conquista dei diritti, un'idea della storia, uscito nel 2022 per i Tipi del Mulino, e per la stessa casa editrice, uscito proprio quest'anno insieme ad Alberto Mingardi, Libertà contro libertà, un duello sulla società aperta. E poi abbiamo anche Valerio Romitelli, storico, già professore presso l'Università di Bologna. Il suo ultimo libro è L'emancipazione a venire, dopo la fine della storia, pubblicato per Derive a Prodi nel 2022. Innanzitutto do subito il benvenuto, anzi il bentornato, perché sono stati i nostri ospiti in numerose occasioni, sia ad Emanuele Felice sia a Valerio Romitelli. Buon pomeriggio ad entrambi. Ciao Steven, salve a tutti e a tutti. Ciao a tutti e a tutte. Un piacere davvero avervi di nuovo con noi per questo dibattito a distanza, questa chiacchierata che facciamo insieme in questa puntata di Zibaldone, a partire un po' dalle elezioni europee che, come i nostri ascoltatori sanno, si sono tenute lo scorso tra il 6 e il 9 di giugno a seconda di vari paesi europei, che hanno lasciato insomma una situazione che alcuni definiscono insomma non è cambiato nulla, altri dicono beh insomma attenzione perché insomma molte cose sono cambiate o potrebbero cambiare. Cominciamo da qui, anche perché proprio nei giorni scorsi Emanuele hai pubblicato un articolo, è uscito un tuo articolo sul Domani, quotidiano con cui collabori spesso, dove proprio insomma sottolineavi alcuni di questi snodi europei che hanno a che fare anche con la posizione dei liberali. Ecco, una prima battuta se vuoi per cominciare questo dibattito da parte tua al riguardo, tenendo conto anche se vuoi un commento sui risultati elettorali europei e il momento in cui ci troviamo. Sì, guarda, un primo tema è proprio la sconfitta delle forze tradizionalmente liberali, che sono poi quelle che più o meno in alleanza con i democristiani, con i socialisti, però sono loro che hanno tenuto la barra soprattutto, quelli che più o meno hanno retto le sorti dell'Europa negli ultimi 30 anni. Ora, queste forze sono state chiaramente sconfitte e vi è stata un'affermazione a fronte del loro declino, innanzitutto di un'estrema destra sovranista, e qui peraltro alcuni di questi liberali hanno iniziato a guardare da un po' di tempo, l'Italia è uno di questi casi, peraltro anche in Spagna adesso è nato un movimento liberista di estrema destra che ha avuto una prima affermazione in queste elezioni. Sì, si accabò la fiesta di Alvise Perez. Sì, sì, sì, sta nascendo, ma attraverso l'esaurimento del tradizionale liberalismo, una nuova alleanza fra liberismo ed estrema destra. Questo è un primo dato che è una possibilità aperta. Anche in Francia, dopo il voto, vi potrà essere un tentativo di Macron di coabitare per sdoganare in realtà con l'estrema destra. E quindi questa è una possibilità molto seria e molto grave. Quello che tu dici, Emanuele, si collega anche in fin dei conti con quello che abbiamo visto in Argentina negli ultimi mesi, con la vittoria inaspettata da parte di molti di Javier Milei, che ha unito posizioni autoritarie in una sua proposta che insomma a tratti è anche piuttosto farsesca, così potremmo definirla, con una difesa a spada tratta del lato più selvaggio del neoliberalismo. E a questo proposito però insomma volevo anche sentire l'opinione di Valerio Romitelli per cominciare questo dibattito, a partire appunto dalle considerazioni di Emanuele. Valerio, è anche un po' del risultato europeo e della situazione in cui ci troviamo in queste settimane. Io la prenderei un po' alla larga, proponendo due punti di metodo che oramai infliggo sempre a tutte quando sorgono in discussione di questo genere, cioè molto brevemente, poi mi taccio. Diciamo, la prima è prima osservazione autoevidente, ma secondo me è da soppesare in tutta la sua portata, è che la tendenza principale a livello globale è la guerra. Quindi, che non vuol dire che arriverà domani, oppure che ci mettiamo a calcolare quando i giochi sono già chiusi, eccetera. Il problema è che la maggioranza dei governanti a livello globale, nell'ordine della loro agenda, del loro possibile, filtrano tutti i problemi economico, sociali, finanziari attraverso questa lente, di questa prospettiva. E quindi, molto semplicemente, penso che l'opposizione destra e sinistra, quindi anche tutti gli schieramenti, non è che viene completamente invalidata, ma sicuramente è rimanipolata alla luce di queste politiche dominanti di guerra e invece politiche di pace quasi inesistenti. E questo è il quadro anche con il quale io cerco di leggere i risultati, su cui magari ritorno. Volevo però aggiungere l'altro punto di metodo fondamentale, la prendo alla larga, parto da Clausewitz, il grande generale prussiano ostile a Napoleone, che si chiedeva al suo tempo quale fosse il focolaio della guerra, da dove nascesse questa tendenza bellicista che non riusciva a risparmiare l'Europa, e naturalmente la sua risposta era Napoleone, Napoleone è la guerra. E per cui era convinto, pur ammirandolo moltissimo da un punto di vista tecnico, no, che era quello il problema principale. Oggi questo tema si ripropone e ci divide tutti quelli che sono appassionati a queste cose, ponendo chi la Russia come la fonte di ogni bellicismo, come la fonte ultima, come la radice profonda, e chi invece la riconosce negli Stati Uniti e nella NATO, e sono due posizioni praticamente irriconciliabili che hanno rotto le amicizie, ne sappiamo le conseguenze, ma la conclusione di questo discorso è molto semplice, che chi decide che è la Russia la fonte della guerra pensa che la guerra, la tendenza globale alla guerra, si combatta, si sconfigga con la guerra, e quindi di guerra in guerra. Chi invece considera la NATO e gli Stati Uniti come la fonte di tutta la bellicosità che ci sta trascinando nelle tenebre invece pensa che siano le trattative, la pace, che la guerra si combatte con la pace, non con un'ulteriore guerra. Direi che mi fermo qui, visto che ho sputato sentenze, quindi per il momento mi fermo. No, hai messo sul tavolo, io credo, alcune questioni importanti, no? Aggiungerei, per passare anche la palla ad Emmanuele, no? Qualche anno fa il presidente francese Emmanuel Macron, quando ancora, diciamo, non era caduto in disgrazia, letteralmente parlando, come in questi ultimi tempi, aveva parlato della morte cerebrale della NATO. In questi ultimi anni le cose sono cambiate molto, la NATO ha riconquistato protagonismo, lo stesso Macron, insomma, al di là poi del progetto, che non si sa mai se prenderà piede realmente, di una difesa europea, o come la si voglia chiamare, insomma, ha parlato addirittura anche di mandare soldati delle forze della NATO in Ucraina. Ma detto ciò, insomma, le spese militari sono aumentate, la retorica bellicista è aumentata, insomma, la guerra ha negli ultimi due anni e mezzo di nuovo protagonismo, ecco, nella politica europea, nella politica internazionale, nelle decisioni delle principali potenze. Ecco, Emmanuele, tenendo conto tutto questo e anche le riflessioni di Valerio, mi interesserebbe conoscere anche una tua opinione al riguardo. Ma sicuramente c'è anche questo aspetto, lo vediamo nella legittimazione che si fa dell'estrema destra che ha accettato il quadro dell'atlantismo. Meloni è il primo caso in Italia, che è in Europa, un'estrema destra che viene legittimata proprio perché accetta con forza l'atlantismo. Però c'è invece un'estrema destra che è molto filo Putin, e anche a sinistra ci sono due posizioni, diciamo che la posizione prevalente non è certamente quella filo Putin, anche se ci sono molte voci critiche sulla NATO. In realtà non è che sia, cioè, probabilmente contano entrambi i fattori, cioè c'è un clima globale di competizione sempre più accesa, economica anche peraltro, e che vede da un lato un'aggressività maggiore dell'Occidente, dall'altro sicuramente l'aggressività di Putin. Questo vuol dire che poi soluzioni alla guerra, al rischio della guerra, vanno cercate in entrambe le strade, secondo me, cioè con un'azione di deterrenza verso Putin, che vuol dire che non bisogna lasciare che Putin vinca in Ucraina, e poi con il dialogo, con una proposta di pace. Però vedo questo tema abbastanza trasversale negli schieramenti europei. Quello che mi convince di più dell'analisi proposta è il fatto che ha giocato molto nella legittimazione di una parte dell'estrema destra, quella italiana, polacca anche, ora finita all'opposizione in Polonia, ma l'estrema destra polacca è stata enormemente legittimata sull'opposizione a Putin. Però poi vedo in concreto nell'assetto dell'Europa schieramenti trasversali su questo, opinioni diverse, registri molto diversi anche tra la Germania, la Francia, molto più nazionali di quanto non tra i diversi partiti. Insomma, è un po' più complessa la storia. Valerio? No, quello che dicevo appunto è che le distinzioni destra e sinistra, secondo me, di fronte a questa tendenza alla guerra, che quando mai dovesse giungere cambierebbe radicalmente tutti i dati, credo che li stia già cambiando. Cioè, quindi la questione principale è chi fa, diciamo, chi aizza alla guerra e chi invece no, ma la seconda opzione è molto relativa. Però diciamo, tutte le problematiche economiche, sociali, finanziarie, eccetera, devono essere viste alla luce di questa tunnel in cui inevitabilmente ci si è indirizzati. Insomma, chiaramente la grande distinzione è quella, ahimè, super classica e super, come dire, fa cascare le braccia, no? Occidente, Oriente, oppure il giardino europeo, la giungla del resto del mondo. Cioè, Voglio dire, queste sono le purtroppo le semplificazioni che portano ad aumentare la guerra, che i fronti si riscompaginino e si riconfigurino a partire dalla guerra, appunto lo dimostra anche l'atteggiamento di Macron, che finché la cosa non era, questa tendenza non era diventata così acuta come nell'ultimo anno, diciamo, no? Macron si poteva permettere di avere una posizione esitante, oppure la stessa Meloni, oppure tutti c'erano questi rossobruni che sembravano, eccetera, eccetera. Poi appena arrivati al potere, chiaramente c'è stato un filtro, tu sei della squadra, della scuderia NATO, devi assolutamente essere assolutamente NATO. Adesso, secondo me, la grande prova della Repè sarà questa, se esita attorno a questa questione di schierarsi, lasciando di fare la Meloni della Francia, oppure di mantenere una cosa. Ma io penso che assolutamente, siccome questi politici sono tutti di una caratura veramente limitata, per cui credo che l'opportunismo prevalga, quindi anche la Le Pen farà la sua inchino alla struttura NATO, per cui potrà benissimo andare al governo, non la vedo così problematica. Per il resto, il tema che naturalmente nessuno è interessato ad affrontare è quello, io dico, ho passato tutta la vita a fare il ribelle, dico, adesso finalmente da grande, insomma da anziano, ho messo la testa a posto e mi schiero con la maggioranza silenziosa di cui nessuno tiene conto, cioè l'assenteismo, cioè il fatto che questa democrazia non è più legittimata, perché è superato il 50% in Italia, ma insomma con tutti i dati anche europei eccetera è impressionante, cioè è chiaro che è un gioco oligarchico, diciamo, di pochi. Adesso mi sono studiato Aristotele ultimamente, in cui oligarchia e democrazia non sono così distinte come dogmaticamente oggi si fa, insomma si sa che la democrazia produce oligarchia, adesso però è di un'evidenza spaventosa, nel senso che insomma il 50%, no, quando siamo a metà dell'assenteismo vuol dire che non ha più a che fare con quella che era l'utopia della democratizzazione del mondo. Secondo me, ecco, questo è anche un grande problema, quello della fine delle grandi disillusioni, cioè se c'è così assenteismo, se la guerra diventa l'ultimo trastullo dei governanti, è perché i due grandi ideologie che hanno tenuto gli ultimi anni hanno entrambe deluso. Cioè, prima c'è stata la disillusione del comunismo, cioè un'idea universale che era contrastata in metà mondo, ma era quella che comunque prometteva un futuro. Poi è arrivata, dopo negli anni 90, la grande illusione della democratizzazione del mondo, anche quella è finita e a questo punto si va alla guerra, nel senso che non ci sono più idee e per gestire il potere un'idea bisogna averla. Scusate se la prendo sempre alla larga. Al contrario, hai messo sul tavolo, Valerio, tante questioni interessanti, su alcune dopo vorrei approfondire, però prima non so se Emanuele vuole aggiungere qualcosa, vuole rispondere. Ma io insomma sarei meno pessimista, cioè io vedo una crisi ma non la fine, vedo una crisi della democrazia liberale, ma non la sua fine, non ancora almeno, una crisi dovuta al fatto che il sistema politico non riesce a governare l'economia, quindi i cittadini si sentono impotenti, il voto viene percepito come inutile, lo stesso Parlamento europeo ha molte poche funzioni, cioè non ha l'autonomia di iniziativa, di legge, però da qui a parlare di fine, è sicuramente una crisi, così come da qui a dire che necessariamente c'è la guerra, c'è una crisi dell'ordine globale che a alcuni posti ha già portato la guerra, ma questo non vuol dire che siamo condannati alla terza guerra mondiale, dobbiamo agire, giocare una partita complicata ma fattibile per evitare la guerra, e su questo l'Europa unita può avere un ruolo importante. Se va in un certo modo, io penso che l'Europa progressista, non penso che siano tutti uguali, cioè Penso che un'Europa progressista, unita e coesa sia più utile a evitare la guerra e a fare un dialogo a certe condizioni, perché non sono affatto per il dialogo a ogni condizione, certe condizioni con la Russia e con la Cina, rispetto a un'Europa nazionalista, delle destre nazionaliste, alleate con i liberali e con i democristiani, che invece spingerebbe probabilmente maggiormente verso un conflitto. Ma io penso che, cioè, la mia opinione, come ho già detto, cioè, vedo benissimo il rischio della guerra. Non penso che ci siamo finiti ancora nella guerra mondiale, e non credo nemmeno che stiamo vivendo una guerra mondiale a pezzi, perché vorrebbe dire accettarla già. Penso che quello che per esempio bisogna fare in Ucraina è mantenere il sostegno all'Ucraina e al contempo avviare con forza un'iniziativa di pace per un cessate il fuoco. Cessate il fuoco sullo status quo, però bisogna fare entrambe le cose, perché se si toglie l'aiuto all'Ucraina non si ottiene un cessate il fuoco, e d'altra parte aiutando l'Ucraina si hanno anche gli strumenti per influire anche sugli ucraini per accettare un cessate il fuoco. E quindi, insomma, do una valutazione meno pessimista, diciamo così, meno pessimista, secondo me un po' più sfaccettata. Sì, io tiro un po' a semplificare, ma quando dico la fine, non dico tanto la fine della democrazia come sistema, perché quello si vede che si autoriproduce, va da sé, insomma, ma io credo che per far politica comunque ci vogliono delle idee, o forse anche delle ideologie. L'inganno dell'ideologia democratica è di dire di non è negare di esserlo, perché la democrazia si propone come un sistema, diciamo, naturale, biologico, insomma, il migliore, il regime più adeguato alla natura umana, per cui la democrazia non ha futuro, per esempio, no, per guarda, definizione. Io penso invece che la crisi sia di altro tipo, cioè sia dovuta al fatto che la democrazia liberale si sia acconciata negli ultimi decenni semplicemente ad adeguarsi ai dettati del capitalismo di mercato. Cioè la politica si è limitata a dire tutto quello che devo fare è far funzionare i mercati. Quindi ha rinunciato al suo compito, che è invece quello di guidare l'economia. E si è invece fatta guidare dall'economia, che ha prodotto peraltro disuguaglianze maggiori, la crisi ambientale e altri problemi. E da qui che deriva la crisi. Aggiungerei un elemento, perché credo che qui stiamo toccando alcuni dei nodi gordiani. Di anche la tua, perché non certo. No, io aggiungerei un elemento che sicuramente, allora, mettiamo sul tavolo altri elementi, per esempio politologi, diciamo, di ambito anglosassone, non dei pericolosi comunisti, per così dire, come David Runciman, che già prima dell'inizio di queste guerre, parliamo del 2018, scrive un libro, Così terminano le democrazie. Steven Levitsky, David Ziblatt, Daniel Ziblatt, che ne pubblicano un altro, sempre più o meno in quegli anni, 17, 18, 19, che si intitola Come muoiono le democrazie. Colin Crouch, no, scrive Post-democrazia, insomma. Sì. Certo. Aggiungevo. Esattamente, no, Colin Crouch, ma poi anche, insomma, il tramonto delle democrazie di Anne Applebaum, insomma, una persona che 20 anni fa difendeva a spada tratta il modello neolib, no? O anche lo stesso Francis Fukuyama, che se nell'89 parlava della fine della storia, ecco, negli ultimi anni invece scrive dei libri dicendo, insomma, il modello democratico liberale sta vivendo una crisi senza precedenti, e insomma, lo spettro della fine di questo modello, insomma, sì, queste persone non tutti dicono che è dietro l'angolo, però insomma lo fanno capire. Insomma, questo mi sembra un elemento di cui tenere conto. Dall'altra c'è anche un'altra questione, no? Che perché non funzionano queste democrazie? Ecco, io credo che qui uno degli elementi chiave, mi piacerebbe conoscere la vostra opinione al riguardo, è la profonda debolezza dei corpi intermedi, in principal modo i partiti, ma anche i sindacati. Ecco, una democrazia liberale, pluralista, solida, solida, avanzata, come si diceva un tempo. Può funzionare quando dei corpi organizzati, ossia i partiti, diventano praticamente dei brand che non hanno più radicamento sul territorio? C'è una maniera per uscire da questa impasse tenendo conto di questo elemento? Valerio e poi Emanuele. Insomma, io dico, cioè, io ho una visione abbastanza, appunto, sempre un po' tranchant e esageratamente netta. Cioè, io credo che il grande successo della democrazia sia stato con la fine del comunismo, perché non si ragiona mai sul fatto che io, per esempio, sono nato che esisteva un ossimoro come la democrazia cristiana, che no, se una democrazia è, non può essere aggettivata, anche se poi succede. Ma voglio dire, la democrazia prima di Fukuyama, della fine della storia, del 90, insomma, della crollo dell'Unione Sovietica, eccetera, era un'altra cosa, cioè, no, perché sembra che da Pericle ai giorni nostri, no, il sistema più naturale per l'uomo sia questo sistema che poi non è neanche corrispondente a quello che ne dicevano i classici, perché come intendeva Pericle o Aristotele, la democrazia non è certo quella attuale, cioè, era più una democrazia, diciamo, diretta, eccetera, eccetera. Quindi il problema è, c'è stato questo momento, per me è finita la utopia della democratizzazione del mondo. Cioè, l'idea universale che faceva da parametro a tutto quello che accadeva nel globo per un certo periodo è stata la democratizzazione. Cioè, non vi piace, ve la portiamo. No? Dopo tante brutte figure fatte e dopo anche la crisi, la più grande crisi del capitalismo, no? Del 2007-2008, cioè, a questo punto questa idea che la democratizzazione del mondo risolve i problemi del mondo, questa è veramente finita. Secondo me quello che ha suggellato una volta per tutto è la fuga degli Stati Uniti dall'Afghanistan, che è stato, vabbè, ma troppe ne dobbiamo mettere, cioè, come è andata, insomma, tutti i grandi fallimenti, ma poi non neanche tali per gli Stati Uniti, perché, insomma, guerreggiare un po' poi andarsene non è per loro magari un fallimento, però in generale, diciamo, questo ha fatto perdere la credibilità nel sogno democratico, diciamo così. Come il sogno comunista era finito, diciamo, nell'89, ma anche prima, no? Così l'altra grande disillusione, per cui siamo a corto di idee, i politici sono a corto di idee. So che da un punto di vista, diciamo, determinista, economico, eccetera, questo non funziona, perché dopo faccio l'idealista, ma io penso alla forza delle idee, delle ideologie. Senza idee, senza ideologie non restano argomenti, la fonte degli argomenti con cui un governante giustifica il suo governo, se non ha queste idee, deve ricorrere a dei mezzucci d'altro tipo, dei mezzacci, e quindi succede che la conflittualità diventa un po' un rifugio. E io sono pessimista, perché o vedo da qualche parte una nuova idea, ma anche di, come dire, rilancio della democrazia, che la democrazia si rilanci. Ma una volta che ha perso la credibilità di essere la ricetta per pacificare il mondo, no? E per creare un mercato mondiale, per creare un posto dove ovunque si può girare in minigonna, no? Combattere il patriarcato, quest'idea di pacificazione del mondo sotto le bandiere democratiche, secondo me è un esaurirsi della questione un po' irrimediabile. Dopodiché, ditemi voi che altre idee, voi potete dire chi se ne frega delle idee, l'importante sono le economie. Ecco, io credo che cioè, idee universali che in un qualche modo fanno consenso, che portano la gente a votare, e secondo me comunque il livello di assenteismo non è più classificabile come crisi della crisi, no? Come dire, crisi, no? Massima crisi, no, siamo già oltre. E come Crouch parlava di post-democrazia, sì, ai primi, nel primo decennio del terzo millennio, sono passati quasi 15 anni, diciamo, dai pure con la post, secondo me abbiamo già sforato, siamo già oltre, cioè la democrazia funziona come dispositivo, come dire, come dispositivo, ma appunto non ha più corpi intermedi, non ha più linfa vitale, cioè è veramente, è uno dei tanti modi di comunicare, la comunicazione, no? Il voto è come si vota per un quando clicchi su un canale, dai, no, lo share della trasmissione, cioè, adesso è così, e quindi giustamente io trovo giustamente che a dare lo share ai nostri possibili governanti, l'alternativa eccetera, è un gioco che ha stufato, cioè, o meglio, si vede proprio la stanchezza, per cui insomma, la vedo molto male per questa democrazia. Non mi sembra che sia una, come dire, traversia, una peripezia momentanea, ecco. A me sembra proprio che questa democrazia, che si è diffusa come tale a partire dagli anni 90, ha finito il suo ciclo. Prima era un'altra cosa. Emanuele, su questo, tenendo conto anche appunto della questione della crisi dei corpi organizzati, dei partiti, dei corpi intermedi se preferisci, ma anche degli alti livelli di astensione, e pensiamo anche, no, soprattutto tra i giovani, aggiungo anche insomma quello che ha appena spiegato Valerio Romitelli, che riguarda anche insomma la crisi o la fine delle grandi visioni del mondo che nell'epoca contemporanea avevano segnato anche la politica. Ecco, tenendo conto di questi elementi, tu insomma come la vedi? Ma io la vedo che intanto la crisi dei partiti è dovuta a un indebolimento della politica rispetto ai poteri dell'economia e finanziari. Penso per esempio al finanziamento pubblico, al modo in cui i partiti si organizzano. Poi non è una crisi uguale in tutti i paesi, infatti cambia a seconda di come cambiano le regole. E il problema in questi decenni, noi non è che abbiamo portato la democrazia al di là di alcuni luoghi in cui l'abbiamo fatto con le armi in maniera criminale, però fondamentalmente quello che abbiamo raccontato al mondo è che dovevano adottare il libero mercato, il capitalismo di mercato, e che poi semmai la democrazia sarebbe arrivata dopo. Invece la democrazia in Cina, per esempio in Russia, nei paesi arabi del Golfo, non è arrivata dopo il capitalismo di mercato. Quindi noi abbiamo raccontato un'altra cosa, ed è stata appunto quella che si chiama l'egemonia neoliberale. In questa egemonia neoliberale c'è anche l'estrema debolezza politica della costruzione europea. Cioè, è vero che l'astensionismo è un problema grave e serio, però l'astensionismo è più alto, ha superato il 50% nelle elezioni europee, nelle altre amministrative comunque cresce, però è sotto il 50%. E perché? Perché appunto il Parlamento europeo non ha poteri, perché noi abbiamo costruito l'Europa della finanza, dei mercati, dei governi nazionali, dove il tasso di persone che vanno a votare è più alto, ma non l'Europa comune del Parlamento europeo. Cioè, io penso che il progetto democratico vada rinvigorito, fondandolo sui diritti dell'uomo, dandogli coerenza, perché altro progetto di convivenza per l'umanità non c'è. Penso anche che il progetto democratico sia un progetto di valore universale. Anche in Cina c'è la democrazia a Taiwan, che è di cultura cinese, a Hong Kong, in Corea del Sud, dove funzionano anche bene, Taiwan in Corea del Sud, quindi non è vero che quelle culture sono restie ai sistemi democratici, e in parte anche nel mondo islamico esistono questi sistemi, quindi però vanno sorretti, e dobbiamo essere innanzitutto noi a crederci con coerenza. Come si fa a crederci con coerenza? Ponendo la politica davanti all'economia. Deve essere la politica a governare l'economia per affrontare le grandi sfide, sono le disuguaglianze, la questione ambientale, la guerra, il governo della tecnologia verso i diritti dell'uomo. La politica democratica deve fare questo e porsi questi obiettivi. E in questo modo si rafforza. Se non lo fa, come non avviene, perché è preda di forze economiche e non riesce a governare, anzi ne viene governata, allora ovvio che la democrazia si indebolisce, la democrazia muore, la libertà politica e civile muore, e trionfa una competizione di capitalismo di mercato simile a quella precedente alla Prima Guerra Mondiale. Se posso dire una cosa, sì, no, dicevo, no, no, una piccola osservazione, perché è un dibattito spesso con amici economisti, insomma, arriviamo sempre lì che, come dire, io pretendo di parlare quando loro si tacciano, cioè dice ci vorrebbe una politica fatta così. E dico, e perché non c'è, cioè nel senso, perché non partiamo dal problema, perché non c'è una politica che faccia il suo lavoro e si lascia andare all'economia? Ecco, la mia risposta è perché per fare delle politiche degne di questo nome, e per fare delle politiche che conducano l'economia, ci vogliono delle idee politiche, cioè possiamo chiamarle ideologie, termine oggi assolutamente vietato, io lo sto rivalutando. Le idee ci sono, è una questione di rapporti di forza, di regole e di rapporti di forza. Non di mancanza, è pieno di idee politiche. I politici scelgono le idee che gli convengono in base ai rapporti di forza e alle regole che ci sono. Se tu se tu negli anni 90 si è liberalizzata completamente la finanza mondiale, ha creato un sistema finanziario enormemente più potente della politica nazionale. Quali idee devono avere i politici? Scelgono poi le idee che dei più forti, che sono quelle della finanza globale. Sì, ma io quando dico idee, cioè tipo, ecco, il comunismo era una, democrazia un'altra, cioè idee universali, idee che danno fiato, che danno spazio. Idee vuol dire visione, vuol dire, no, vedere lunga, ecco, visioni, avere, Pasolini diceva, almeno... oltre a non uccidere, i politici dovrebbero avere delle visioni, ecco, delle visioni, cioè prospettive, eccetera. Oltre quella di parlare delle prossime elezioni, oppure di parlare appunto dei vincoli posti dall'economia, dai politici non mi sono accorto che circolino delle idee, che ci sia un dibattito. Emanuele, sì, la tecnologia, prego. Per i diritti dell'uomo, risolvere la crisi, perché non lo fanno? Perché non gli conviene? Appunto, allora vuol dire che di forza. Ma questa visione c'è, non è che io me la invento io, c'è questa visione. Qui siamo a un nodo. La discussione su questo, ci sono delle idee o non ci sono delle idee? Io sono per la negativa, secondo me non ci sono delle idee degne di questo nome, diciamo. Emanuele invece, cioè, è invece più ottimista da questo punto di vista e parla di correlazioni di forze. Ci stiamo avvicinando alla conclusione. Un'ultima domanda, così risposta secca nel limite del possibile per entrambi. E vorrebbe toccare due temi. Uno che si collega a quello di cui abbiamo discusso soprattutto negli ultimi minuti, ossia la globalizzazione, come l'abbiamo conosciuta, è definitivamente finita, è in un momento di svolta e può trasformarsi in un'altra cosa, e semmai in cosa, e dall'altra invece, andando invece meno sui massimi sistemi e invece su cose più vicine a noi e più palpabili, ecco, a novembre ci saranno le elezioni negli Stati Uniti che potrebbero insomma riportare Donald Trump alla Casa Bianca. Che scenari si potrebbero aprire da questo punto di vista, pensando soprattutto anche al progetto europeo e alle cose di cui abbiamo discusso all'inizio, relative anche al protagonismo della NATO. Emanuele, se vuoi cominciamo con te e poi passiamo a Valerio per chiudere. Ma la vittoria di Trump alla Casa Bianca sarebbe sicuramente una spinta potente alle destre nazionaliste in Europa. Non so dire l'impatto che avrebbe su Putin, perché al di là delle dichiarazioni poi bisognerà vedere, e negli interessi nazionali degli USA cosa conviene fare. Però sicuramente Trump darà una forte spinta alla disarticolazione dell'Europa, aiutando le destre nazionaliste dei singoli paesi d'Europa, e quindi questo porterà, io temo, a un indebolimento, anche perché non vedo le classi dirigenti della Francia e della Germania all'altezza, tantomeno quelle dell'Italia, e quindi porterà, io temo, a una grave crisi del progetto europeo. E questo vuol dire che l'unico Occidente forte che rimarrà al mondo, come in parte già è, sono gli Stati Uniti, e questo creerà problemi, perché gli Stati Uniti oggi sono il volto peggiore dell'Occidente. E sulla globalizzazione, rapidamente? La globalizzazione, sì, come l'abbiamo conosciuta, mi pare finita nell'aspetto nel modo peggiore, nel senso che secondo me l'aspetto più positivo della globalizzazione, allora noi abbiamo avuto una globalizzazione in cui, a differenza di quella tra 800 e 900, i migranti sono stati comunque fortemente limitati, quindi il lavoro non è che fosse tanto globale, però abbiamo globalizzato le merci e i soldi, i movimenti della finanza. Di questa la globalizzazione delle merci secondo me è positiva, la globalizzazione del commercio, mentre la finanza invece andrebbe regolata e governata. Quello che sta avvenendo purtroppo è il contrario, cioè si è tornati a una competizione commerciale molto forte, mentre la finanza continua a essere indisturbata e non regolata e il lavoro continua a essere sempre fortemente limitato. Quindi vedo che la globalizzazione sta finendo e sta finendo nel modo peggiore. Ripeto, in maniera simile, su questo veramente impressionante quello che è accaduto al periodo finale prima della prima guerra mondiale, quando ci sono delle guerre commerciali molto forti, mentre i capitali si muovono sempre in maniera piuttosto libera. Valerio, in un minuto, se riesci a riassumere il tuo pensiero a riguardo. Sì, no, ma io appunto ce l'ho con la guerra, per cui penso che sì, tutto si ridefinisce, cioè l'alternativa globalizzazione oppure sovranismo locale non è più una discussione, adesso sono i fronti della guerra, come si distribuiscono. Ecco, l'elezione negli Stati Uniti, non so, io spererei che fosse comunque, io diciamo il mio parametro è politiche di pace, che non ne vedo, oppure vedo dei tentativi, oppure il resto sta, non si ferma, diciamo, la tendenza alla guerra, perché non ci sono idee alternative, idee forti, idee universali, per cui il conflitto è chiaro che è la chiave migliore. Ecco, sulla storia, su quello che può significare l'Europa in questo frangente, meno di zero, perché se uno studia un po' anche la storia della nascita, della configurazione dell'Europa, adesso non posso sciorinare le date, ma è impressionante la prossimità con, diciamo, le vicende della NATO, che ha comunque la sua sede principale a un chilometro della Commissione europea, per cui si possono scambiare i pizzini, neanche devono usare, no, voglio dire, c'è una contiguità di tutto il progetto europeo con quello che è l'esigenza, diciamo, della potenza vincente occidentale, gli Stati Uniti, che per quello secondo me l'Europa non ha niente da dire, insomma. Gli Stati Uniti, speriamo che comunque quello che venga eletto, e non mi fido certo di Trump che certo, faccia delle grandi certo. svolte, ma che, per dire, siccome a suo tempo disse che la NATO, non so, bisognava pagarla perché sennò non veniva, però sì, non, sì, vabbè. Sì. E ne riparleremo, insomma, sono temi ovviamente cruciali. Bella chiacchierata, grazie. Ringrazio ancora Valerio Romitelli e Emanuele Felici che ci hanno accompagnato un'altra volta qui a Zibaldone. Un abbraccio ad entrambi. Ciao, a presto, ciao. Sembrano in secchi da buttare, che si nascondono nel buio dei tuoi sguardi, e fare bagagli forse non è mai tardi. Siamo figli della storia, della memoria, di quello che ci resta ma non c'è. Parlami sempre, non smettere mai. Siamo storie che camminano, che si confondono, che si posano su te. Storia della memoria, nessuno si ricorda mai cos'è. Noi siamo figli della storia o solo il frutto del caso? Siamo materia vivente in forme, il tempo ci ha modificato. Noi siamo orfani di luce, miraggi in mezzo al deserto. Noi siamo chi ci ha preceduto nel suo procedere incerto. Quando si chiuderà il sipario in questo immenso teatro, non ti ricorderai gli applausi, ma solo come hai recitato. Se siamo fatti di memoria, di tutto ciò che hai seminato, sopravviverà in eterno solo l'amore che hai dato. Il nostro paese è riuscito ancora una volta a stupire con la fantasia dell'intelligenza artigianale. Orgoglio di Giorgia Meloni a chiusura del G7 in Puglia, il primo ospitato nel bagagliaio del furgone di Leonardo DiCaprio, bilaterale con Biden sulla moto di un deputato della Lega. Se sei contento di quanto fai, hai già vinto. I grandi incontrano Zelensky, $50 in più per l'Ucraina. Putin e i leader del G7 pronti a negoziare se Kiev rinuncia alla NATO. E salta la cena per i successivi 70 anni. Nel Regno Unito, il sollievo dei sudditi, la speranza di un nuovo inizio per i Windsor. Come cuochi, camerieri, addetti specializzati in hotel, spa e spiagge. Del Veneto, il governatore Zaia, una vergogna, il governo italiano intervenga. Un'iniziativa shock di Gianmarco Tamberi, portabandiera alle Olimpiadi di Parigi, con un istintivo abbraccio, ha rotto il collo al presidente Macron dopo la sua decisione di indire elezioni anticipate. Poi, istrionico e trascinatore, ha detto: se sei contento di quanto fai, hai già vinto. Nella dichiarazione finale del vertice in Svizzera, la volontà di rispettare l'imperfezione con tessuti stropicciati perché portano i segni del nostro tempo difficile. Israele ribadisce: la guerra è necessaria per far provare ai cittadini di Gaza come si vive nelle carceri italiane. Casellati, non accettiamo lezioni sul suicidio. Siamo davvero competitivi. E come avete sentito, sono tornate anche le ultimissime del nostro Fausto De Salvia, che salutiamo e ringraziamo. Una visione un po' diversa della realtà rispetto a quella che ci propongono i mass media mainstream. Insomma, noi siamo arrivati ormai però alla fine di questa puntata di Zibaldone. Vi voglio solo però presentare il brano che abbiamo ascoltato poc'anzi. Erano Seta e Simone Cristicchi, Figli della Storia. Un bel brano tratto dal nuovo album di Seta, cantautore abruzzese che abbiamo mandato in onda varie volte qui a Zibaldone, anche un paio di brani da questo suo nuovo album uscito nel 2024, intitolato Assamanu, spero di pronunciarlo bene. E per salutarci non possono mancare non può mancare il brano che noi chiamiamo L'ultimo trago, che sono versioni, come sapete, di canzoni italiane interpretate in lingua spagnola da cantautori appunto della penisola iberica o dell'America Latina. In questa occasione andiamo ad ascoltarci proprio anche perché insomma cadeva in questi giorni o sarebbe dovuto cadere un anniversario, ossia gli 81 anni di Raffaella Carrà che gli avrebbe dovuti compiere lo scorso 18 giugno e quindi la vogliamo ricordare con una versione in spagnolo di una delle sue più celebri hit, Rumore del 1975. È vero che a Zibaldone tempo fa avevamo già mandato in onda una versione spagnola di Rumore, intitolata Rumores, però qui si tratta di una versione argentina del brano, incisa dalla cantante e attrice Silvana Di Lorenzo pochi mesi dopo l'edizione italiana, e che tra l'altro, oltre ad essere ritmicamente meno groove, no, dell'altra, della versione originale, vanta un testo spagnolo scritto da Lalo Franzen al secolo, magari per chi insomma conoscesse questo personaggio, Norberto Omar Franzoni, che è una versione completamente diversa da quella realizzata contemporaneamente, praticamente negli stessi mesi in Spagna, da Jesús González López, che è quella che noi avevamo dato in onda. Insomma, misteri della discografia anni 70, con questa Rumores nella versione di Silvana Di Lorenzo che ci arriva dall'Argentina. Noi ci salutiamo e vi invitiamo a risintonizzarvi la prossima settimana su Radio Contrabbanda, venerdì dalle 17 alle 18, per una nuova puntata di Zibaldone. Ci rimangono ancora alcune settimane prima della pausa estiva. Questa è Rumores, Silvana Di Lorenzo, un omaggio ovviamente a Raffaella Carrà. Por mi culpa yo perdí tu carrera.